Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Una mattina mi accorsi e notai che gli italiani improvvisamente sono diventati un popolo di sofferenti di dolori articolari e muscolari. Sì, perché non mi è mai capitato nella vita di vedere un così vasto concentrato di locali dove offrono massaggi rilassanti, massaggi terapeutici, massaggi benefici. Poi naturalmente abbiamo scoperto, ma non è che nemmeno occorre fare indagini troppo approfondite, che dietro questi saloni di massaggi c'è la ben altra attività. Beh, un giorno ho voluto gettare la maschera, ho voluto chiedere agli italiani: ma siete voi quelli che vanno a farsi fare i massaggi nei locali cinesi? E cosa avviene in questi locali? Che tipo di massaggio vi fate fare? Quanto costa questo massaggio? E questo massaggio vi fa veramente bene alla salute? Beh, ne sono venute fuori delle storie molto interessanti. Si è capito che esistono degli appassionati che ormai hanno deciso che la più benefica delle attività che possono naturalmente proporre alle proprie stanche membra è quella del massaggio cinese. E quindi si scambiano le informazioni in rete, si forniscono le mappe dei migliori luoghi di massaggio e naturalmente vanno a farsi massaggiare. Come? Beh, ascoltando la puntata che vi stiamo per riproporre capirete. A fare partire l'indagine, dopo un controllo della polizia municipale alla fine del 2010, è stata una giovane estetista italiana assunta in uno dei centri massaggi che aveva bisogno di una figura professionale. Lei però ha intuito che alla fine del suo turno di lavoro, che terminava alle 18, succedeva qualcosa di strano e si è rivolta alla polizia. Le massaggiatrici erano impiegate più di 12 ore al giorno, avevano un regolare loro stipendio, prendevano una percentuale, un piccolo quantitativo di soldi in più per l'attività sessuale che avevano facoltà in questo caso di accettare su richiesta del cliente, quindi un vero e proprio rapporto di lavoro con il datore del centro. La clientela? La clientela è esclusivamente maschile e per lo più... La trasmissione di oggi non ha nulla a che fare con quella di ieri, non è che sono allarmato, non è che voglio dire c'è un problema di salute pubblica generale, no... Mi interessa, sarebbe più argomento una Nicoletta Carbone, devo dire, mi dispiace usurparlo, ma sono preoccupato per questo insorgere improvvisamente di problemi di tipo articolare e muscolare da parte degli italiani. Guardate che veramente, un po', beh, certo, è l'umidità, il clima è umido, c'è la crisi, ci sono le ristrettezze, i pensieri molte volte influiscono anche in queste cose. Ma quanto stiamo messi male dal punto di vista della tenuta dei nostri muscoli, dei nostri legamenti, delle nostre giunture, che abbiamo bisogno di tanti massaggi. Sì, perché non ho mai visto tanti saloni massaggi improvvisamente aprire. Uno arriva a Milano, appena esce dalla stazione ce ne sono centinaia, tutti in cinese, tutte con delle ragazze molto carine, cinesi, di fronte al loro salone per massaggi, che ti sorridono e ti dicono se vuoi essere massaggiato. Ma anche qui a Roma, fra la sede della radio, Piazza Indipendenza e Casa d'Intonti, dalle parti di Piazza Vittorio, è tutto un pullulare di saloni massaggi. Infatti è freschissimo, arriva qui la mattina Fabrizio Intonti che è disteso, ha tutti i muscoli rilassati, quindi evidentemente abbiamo bisogno di massaggi. Com'è improvvisamente nessuno ci aveva fatto capire che la nostra salute era così precaria e sarebbe così risollevata grazie a tanti saloni massaggi. Molti se ne stanno occupando e io faccio la domanda ingenuamente al mio pubblico: ma voi li frequentate? Cosa accade in questi posti? Ma sono veramente così bravi a fare i massaggi? Sì, perché molti le vedono anche, me l'ha detto il professor Rocchetti, nostro valente fonico, che anche l'estate nelle dune del litorale romano ci sono le cinesi che fanno i massaggi. Ma siccome naturalmente voi andreste dal dentista in mezzo a una spiaggia, andreste dal podologo in mezzo a una spiaggia, ma ci vuole un po' di riservatezza, quando vanno a fare i massaggi vanno dietro la duna, si infrattano, perché naturalmente è chiaro, uno se deve rilassare i muscoli e ci vuole un po' di privacy. 800 24 00 24, ci andate anche voi a farvi il massaggio cinese? E se ci andate, cosa fanno? Avete mai visto entrare e uscire vecchietti con l'artrite, signori minore con la sciatica dolorante. Non so se dico bestialità dal punto di vista clinico, non è proprio il mio campo. Fino al 2007 a Milano di centri massaggi ce n'erano meno di 10. Oggi invece sono più di 200. Ci lavorano oltre 1500 ragazze esclusivamente cinesi e un giro d'affari stimato in circa 100 milioni di euro. Le ragazze nei centri massaggi lavorano 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana. Che massaggi fate? Massaggio giapponese, tailandese, cinese, poi romantico. Proprio il massaggio romantico è al centro del business di questi posti, anche se esternamente non si direbbe. Ci chiede 10 euro perché il massaggio romantico altro non è che un massaggio al pene, cioè una masturbazione. E ovviamente alla fine del romantico uno si deve lavare. Quello che alla fine uno spende quando entra in questi posti sono 110 euro. Ma torniamo dentro e cerchiamo di capire come funziona il lavoro. Fece tempo fa la Iena Luigi Pelazza un mirabile servizio, si sottopose come dolorosa cavia a queste pratiche, girò per vari saloni massaggi in città insospettabili come Padova, una delle parrocchie d'Italia. Ma quanto è umida Padova, perché ci sono tanti saloni massaggi cinesi. E vide che in effetti erano due le caratteristiche che interessavano alle Iene: primo, capire in realtà la fattispecie del massaggio che veniva praticato in quei saloni, e fra tanti massaggi il più praticato era il massaggio romantico. Sono teneri. Definire massaggio romantico quella che, ahimè, è la primaria e principale attività di espressione sessuale dell'essere umano, ce ne passa un pochino. Comunque il massaggio romantico alla fine viene a costare un sacco di soldi. Altro fatto che le Iene hanno osservato, che in realtà non fatturano, non fanno ricevute e fanno veramente tanti soldi. Il fatturato pare che sia veramente imponente, perché, come ho detto, c'è molta sofferenza dal punto di vista muscolare e artritico, e quindi c'era sempre la fila. Sono messe le Iene davanti a uno di questi saloni, hanno visto che praticamente uno entrava e uno usciva, uno entrava e uno usciva, e una delle signorine ha confessato che in una mezza giornata ne avrebbe fatti 11-12 di questi massaggi romantici. Moltiplicatelo per 110 euro, devo dire che il fatturato è notevole. E siccome ce ne sono tanti, c'è un grande giro di soldi. E siccome siamo qui tutti con le mutande in mano, vedendo che ci vengono a prendere e sgraffignare anche quelle ultime disperate lirette antiche che abbiamo conservato, vogliamo capire come ci sia un così grande giro di soldi su cui nessuno mette mano, visto che è sotto l'occhio di tutti. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei le conosce? Lei ha problemi muscolari, di artrite? No, me ne guarderei bene di andare in certi posti. Perché? Ma perché sono palesemente delle case di tolleranza. Ma come mai lo dice lei? Cosa gli fa pensare? Ma no, perché ho visto quel servizio delle Iene. Eh beh, le Iene, però le Iene è un aspetto. Ma non ho capito, chiedo? No, dico, è un aspetto della realtà, le Iene. Poi... Ma è la verità, ma oltretutto... Ma come mai nessuno interviene? Scusi, ma nessuno scende in piazza? È quello che io mi dico, nonostante tutte le denunce sia di giornali, di televisione, di tutto, nessuno interviene, guardia di finanza, è un po' la solita storia. Le posso dire il mio punto di vista, Angelo, poi magari non è il suo, a me non scandalizza. Purché a questo punto qualcuno abbia il coraggio e la spudoratezza di dire: va bene, in Italia hanno riaperto i casini, cambiamo la legge e controlliamo che in realtà ci sia una regolare tenuta fiscale di quelli che ci lavorano. È questo l'importante, ma anch'io non mi scandalizzo per niente. Cioè, ma non è che a me scandalizza il raspone della cinesina che si vanno a fare gli italiani, non è questo. No, l'importante è che paghino le tasse, facciano quello che vogliono, l'importante è che paghino le tasse, perché i cinesi, il binomio cinese-tasse sono l'opposto, uno da una parte e uno dall'altra. Anche perché, diciamo, se la pratica si limita a questa, diciamo, applicazione amanuense, è limitato anche il rischio delle malattie a contagio sessuale, si sta tranquilli, si torna tutti bambini e va bene. Meglio questi luoghi chiusi che vedere tutti i trans in giro conciati in quella maniera, per carità. E poi lì rischiano molto meno alla fine, certo, tutto sommato. Però l'importante è che paghino le tasse. Lei è d'accordo? Benissimo. Biagio, cosa ne pensa? Biagio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io non riesco a capire come mai. Tutti hanno capito il problema, è quello che svolgono all'interno di istituti di bellezza, di messaggi, come li vogliamo. Abbassi la radio, spenga la radio, perché c'è un'interferenza. Lei dice tutti lo sanno, anche lei lo sa. Tutti lo sanno, sì. Si è mai posto il problema dei massaggi? Cioè, lei mi è capitato di avere un giorno, non so, gli si blocca la schiena, il colpo della strega, dice vado a farmi un massaggio così guarisco. Ma non vado sicuramente in quei centri, vado in qualificati. Ma da cosa si capisce che lì non si pratica il massaggio salutare, ma il massaggio romantico? Ma perché se passa davanti a questi centri, vede donne in minigonne, donne in décolleté, cioè, ormai siamo arrivati all'apice. Cioè uno capisce da come sono vestite le massaggi, non hanno un camice. Sicuramente, no, sicuramente, non hanno professionalità, cioè tu vai in un centro qualificato, trovi una persona col camice, trovi una persona, diciamo che all'apparenza si vede che... Poi di solito chi fa i massaggi ha delle mani che sembrano delle macine da mulino, non è che ha delle manine delicate. Comunque, io sono dal parere, appunto come diceva il signore di prima, che intanto sono contrario alla, anche se pagano le tasse, ad esercitare quello che fanno, ecco. Non lo vedo giusto, anche perché la nostra Costituzione lo vieta. Beh, non è proprio vedo... la Costituzione, diciamo, già hanno fatto una legge negli anni 50 della senatrice Merlin, che ha detto quei brutti posti che non si possono nominare, hanno fatto anche, per dirlo al telegiornale, un lungo giro di parole senza mai nominarle, non ci saranno più. È anche giusto, perché era una cosa molto triste. I tempi sono cambiati, oggi esistono tranquillamente migliaia di pagine dove reclamizzano l'attività di escort, ma esiste questa forma un pochino più dimessa nell'apparenza, ma molto più visibile, dei saloni da massaggio giapponese e cinese, scusate. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire la mia, in quanto ho sentito questo signore, specialmente quello di prima, sì, che parlava di questi centri che non vanno bene per la Costituzione. Ma se questo serve per togliere le prostitute dalla strada, la gente che va a violentare le persone, gente che si mette, non credo le mani che il rapporto sia così diretto. Ma lei, innanzitutto, cosa ne sa di questi centri? Perché io voglio... Ma niente, perché parente, un mio amico c'è stato, ah, ma un suo amico, che sì, gli hanno... Cosa gli è successo? No, io grazie a Dio non ho bisogno di questo. No, vabbè, ma perché? Però, tutti possiamo averne bisogno nella vita, no. Mai dire mai. No, guardi, però non posso io... L'amico cosa ha detto, l'amico? L'amico che le ha detto? Ma l'amico ha detto che lui gli hanno chiesto alla fine se voleva continuare e lui ha consentito, perché, ma tutto lecito, non è che gli hanno buttato una pistola, certo. Ha pagato 100 euro e lui ha fatto avuto... Anche perché sua, sotto la minaccia di una pistola sfido chiunque... Ma certo, no, vabbè, bisogna vedere, c'è anche chi si eccita così, perché... No, però voglio dire... 100 euro alla fine, è costato 100 euro. Sì, 110 euro, però 110. Un bel massaggio e lei ha fatto quello che doveva fare. 110 euro comunque è una bella sommetta, devo dire, onestamente. Vabbè, ma chi se ne frega, però se lui è stato contento così... Certo, ognuno non spende i suoi soldi come... È brutto come la fame, ha portato una persona all'istante, lo ha pagato... non ci sono le prostitute per strada. Quindi secondo lei svolgono una funzione sociale, l'unico problema è quello di tipo fiscale, ecco. Ma certo, sì, chiaro, ma poi voglio dire, perché alietare la spiritualità di una persona anche in queste cose è bello, no? No, ma io non ho nessun pregiudizio di tipo morale, figuriamoci. È singolare, per questo è il senso, primo è singolare la variazione della specifica commerciale, di attività commerciali cinesi. Hanno iniziato con i ristoranti, poi hanno cominciato con i negozi che vendono tutto, il bricolage, le attrezzature, i detersivi. Questi negozi stanno colonizzando il mondo. Poi sono passati ai ristoranti giapponesi fatti dai cinesi, che illudono le persone che siano giapponesi, perché ormai il ristorante cinese è sinonimo di avvelenamento, quindi vanno tutti nei ristoranti giapponesi, che sono le stesse cose, solo che mettono delle statuette con i samurai al posto delle statuette con i Buddha cinesi o il gattino che fa ciao. E adesso, alla fine, la grande svolta delle attività, almeno lecite alla luce del sole, la prostituzione, sotto una forma velata, però una forma diciamo anticamente legata a qualcosa che sembra non toccare l'integrità della nostra idea della fedeltà coniugale, della tenuta sessuale. Fanno qualcosina che uno potrebbe anche illudersi alla fine che non ha fatto niente di male, un po' come Bill Clinton che diceva che non era adulterio quello che faceva con la Lewinsky. Ariette, buongiorno. Buongiorno. Stavo sentendo questa trasmissione interessante per me, perché sono diplomata a Pechino in medicina tradizionale cinese, nel massaggio cinese. Ma lei è una massaggiatrice cinese? Io sono una massaggiatrice cinese. Però non è cinese lei? Lei non è cinese? Non sono affatto cinese. Di dove è lei, Arietta? Pure francese. Francese. Quindi lei ha studiato il massaggio cinese? Io ho studiato a Pechino massaggio nel campo della medicina tradizionale cinese, che è un'arte molto nobile. E è un massaggio terapeutico? È un massaggio assolutamente terapeutico, fa parte integrale del corpus totale della medicina cinese, di cui è un aspetto. Ma prevede diciamo l'apoteosi finale oppure no? Non prevede nessuna apoteosi. No, perché quello giapponese la prevede, quello cinese non lo so. Il massaggio giapponese la prevede. No, il massaggio cinese è un massaggio assolutamente terapeutico che si fa in ospedali. Io ho studiato all'ospedale militare di Pechino proprio questa tecnica. E sono dei reparti di massaggi, come qua abbiamo dei reparti che ne so, in Cina è diverso, insomma, non ci sono reparti di ginecologia piuttosto che di cardiologia, è diviso in settori di tecniche. Perché ospedale militare, scusi? Militare? Perché il mio tirocinio, abbiamo lavorato in pronti soccorsi per imparare. Nel nostro gruppo ci hanno diviso e io sono capitata all'ospedale militare. Quindi ha fatto imparare. Il tirocinio con i militari? Sì, con i militari. No, sembra ambiguo, quindi... però lo volevo spiegare perché sennò lasciamo in sospeso chissà quali pezzi. Lei allora dice, secondo lei queste ragazze non hanno nemmeno un barlume di tradizione nessuna massaggiatore? Nessuna preparazione, perché prima tocca studiare medicina come si studia medicine, fisiologia, fisiologia, fisiopatologia, clinica, lo yin e lo yang, penso, tutte queste cose qua, no? Lo yin e lo yang, tutte le teorie che portano la medicina cinese, una medicina antichissima, vera e propria, e queste ragazze... Non se la cava con un po' di sveltezza di polso, non è quello, ecco, diciamo. No, tocca fare una differenziazione delle diagnosi, tocca avere un bagaglio, insomma... teorico, pratico, non indifferente. Quindi è anche una grande mistificazione. È una grandissima mistificazione, grandissima, ed è anche pericolosa. È come i finti mariachi davanti alle trattorie messicane, come i finti pizzaioli che in realtà sono indiani, sono cose del genere. Cinesi, come sempre, individuano dove si fanno i soldi e lo fanno senza scrupolo, insomma, appunto. Quindi lei conviene sul fatto che soltanto una semplice attività di prostituzione, fine? Esatto, è un'altra forma, cioè, e basta, ma non c'è niente di... La ringrazio, Arietta, Allora, Daniele Cologna, buongiorno. Buongiorno. Daniele Cologna è un sociologo dell'immigrazione, un sinologo, esperto di immigrazione cinese in Italia. L'ho fatta ascoltare perché volevo che lei sentisse dal vivo quelle che erano le impressioni. Hanno chiamato molti uomini, poi ha chiamato questa signora che ha studiato veramente in maniera capillare, accurata, scientifica, diciamo, il massaggio cinese, ha fugato ogni più labile possibilità che si potesse ancora fraintendere. Io ho scherzato all'inizio fingendo di non sapere cosa si praticasse. Lei invece, dal suo punto di vista, mi spiega questa evoluzione, queste varie ondate di specifica professionale delle comunità cinesi in Italia? Ma il proliferare dei centri massaggio, in realtà potrei inserirlo in un fenomeno più ampio, che è quello della crescente presenza cinese nel piccolo commercio di prossimità, nel piccolo commercio di strada. Occorre ricordare che queste attività sono sempre svolte all'interno di locali che sono di proprietari italiani e sono lì in affitto. Non si tratta, quindi, da questo punto di vista, il discorso che sentivo fare sulla grande redditività di queste imprese, io lo metterei tra grosse virgolette. Perché... Questo ho detto al servizio delle Iene, lei non... Sì, allora le posso dire da dove prendo un po' le mie informazioni. Io lavoro in un'agenzia di ricerca sociale di Milano che si chiama Codici, che ha appena terminato un progetto di 3 anni che ha studiato la prostituzione indoor in Italia e in particolare nella provincia di Milano, insieme ad alcune delle unità di strada che operano, diciamo, a contatto con il mondo della prostituzione, cercando di fare prevenzione, salute sessuale, cose di questo genere. Il fenomeno è complesso, nel senso che i centri di massaggio, è vero, la stragrande maggioranza... Mi scusi, Cologna, avere una tracciatura delle escalation, perché se comincia a parlare adesso, diciamo 10 anni fa Donne cinesi non si vedevano in giro nemmeno con il binocolo. Dieci anni fa di prostituzione cinese in Italia ce n'era molto poca, e quella che era presente era estremamente sotterranea, cioè nascosta. Sì. Esatto. Di centri massaggio che offrono massaggi che spesso hanno una componente sessuale, anche se non sempre, questa cosa va detta. Si comincia a parlare in modo abbastanza massivo a partire dal 2008-2009, quindi è un fenomeno molto recente. Sì. E va di pari passo con un fenomeno parallelo, che è quella della moria dei piccoli negozietti nella maggior parte delle grandi città italiane. Non è un caso che vediamo imprenditori immigrati, in particolare cinesi, rilevare attività di questo genere, cioè piccoli negozietti di prossimità. Sono attività non più redditizie, è la ragione per cui il famoso emporio cinese dove si vendono dalle pinza all'incalzino. Sono luoghi dove si riesce a sopravvivere come imprenditori solo se si è imprenditori immigrati, se disposti a lavorare tantissimo per pochissimi soldi. I centri di massaggio cadono in questa categoria. Quelli che in modo più sfacciato e determinato vanno ad orientarsi a un'attività prostitutiva paragonabile a quella delle case chiuse, per capirci, sono un'estrema esigua minoranza. Anche se mi sembra di capire, guadagnano, mi sembra di capire, ma vengono anche controllati e spesso e volentieri chiusi, cioè non è in realtà episodico il controllo, il contrasto da parte delle forze. Sì, che però ce ne sono veramente tanti. Lei conviene che sì, sono tanti, sono ma centinaia tutti, in tutta Italia. Esatto, ma non tutti riescono a, come dire, a rientrare in quella specifica configurazione di reato, cioè sfruttamento della prostituzione. Anche se c'è da dire, poi ci sentiamo dopo le informazioni della borsa, su questo rifletteremo, che si sono inventati un'altra forma, diciamo, di prostituzione mediata, ammorbidita, sembra andare in linea con tutte le ansie di prestazione degli italiani, con i problemi di coscienza, con le mentalità bigotte. In fondo è una prostituzione, diciamo, intermedia rispetto proprio a un atto sessuale vero e proprio, che sembra coincidere perfettamente con quelle che erano le attese del loro pubblico. Melog, la realtà condivisa. Sappiamo perfettamente che in Italia la prostituzione, o comunque consumare un rapporto sessuale a pagamento, non è reato. Quello che noi perseguiamo chiaramente è lo sfruttamento da parte di altre persone del corpo delle donne, e soprattutto anche la tutela delle professioni che richiedono invece studi, professionalità e competenze. Allora, quello lì ha anche qualcosa di sopra, dove i clienti, oltre a fare lì, fanno anche su in casa, quindi fanno prostituzione pura. E anche nel massaggio fanno prostituzione, non è massaggio, lei va dentro, alla fine fanno di tutto. Si può parlare chiaro, perché ci vuole tre anni. No, non solo masturbazione, non anche proprio sesso. La persona che avete appena visto non sa di essere ripresa, ma si lamenta per questo la è sempre il servizio che intervista un'estetista vera, arrabbiatissima e inviperita verso le cinesi, perché non si limitano al massaggio, ma perlomeno fra tutti gli organi umani che massaggiano, il maggior profitto lo traggono massaggiando quello più innominabile. Tiziana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io ci tengo a sottolineare alcune cose rispetto a questo argomento. Intanto conosco piuttosto bene l'ambito dove si svolgono nei paesi asiatici queste attività. Allora, sono da dividere nettamente la parte massaggi dalla parte, come si può dire, prostituzione. I massaggi sono realmente... Ma nemmeno che io la chiamerei come, diciamo, attività su organi sessuali. No, appunto, infatti, appunto, peraltro. No, ma poi possono anche arrivare a molto di più, perché si chiama body massage o altre cose. Sì, infatti, si strusciano con l'olio sopra, roba da film. Si esercitano tantissimo questi tipi da di massaggi. Da cinepanettone, sì. Esatto, ma li garantisco, io c'è stata più volte, sono stata in un centro di massaggi, mi sono fatto fare un massaggio di 2 ore, ma le garantisco 2 ore, dove loro utilizzano le loro tecniche, che sono rispetto alle nostre, secondo me, evolutissime, per cui per me qui il problema sta non voler riconoscere la grande abilità, da questo punto di vista, che hanno questi paesi del sud-est asiatico, sia del massaggio di tutto il corpo, sia del massaggio muscolare, del massaggio rilassante, della riflessologia, comunque di tutte queste tecniche tipicamente orientali. Diciamo, è il rapporto, diciamo, con l'occidentale, che, di cui secondo sanno, me, immaginano l'ignoranza. Non hanno, ancora una cultura abbastanza sviluppata e non sono preparati, perché in Italia di corso... Ti dirò, un'amica mia ha avuto un brutto incidente, è andata in Turchia, nel salone massaggio annesso all'hotel dove andava lei con alcune amiche, è andata a fare il massaggio, si è ritrovata un paio di signori che gli hanno tirato fuori delle cose che nulla hanno a che fare con il normale massaggio turco. Ma succede ovunque, voglio dire, anche in alcuni centri a Bangkok, che chi c'è stato non può non riconoscere questo fatto, ti invitano ad entrare per essere sottoposti, tra virgolette, ad alcuni tipi di massaggi discutibili, d'accordo. Il problema non è tanto che questi massaggi siano discutibili, ma che sono svolti da ragazze, da bambine, perché sono under 18. Sì, questo è un altro gravissimo problema. Questa è la cosa drammatica, e adesso poi si sta sviluppando anche il piacere dell'accompagnarsi a dei bambini maschi. Sì, questo è turismo sessuale di pedofili. Questo è molto turismo sessuale. Vorrei riportare il tema, non che sia non sia un argomento degno di approfondimento, ma oggi parliamo di attività in cui le cinesi in cui lavorano mi sembra siano tutte maggiorenni, anzi leggo alcuni messaggi di abitué, dice se, rispetto alla prima ondata oggi sono tutte vecchie, tutte di 40-50 anni, non so se sia vero questo, ma qualcuno degli informati questo mi sta scrivendo. Bruno, buongiorno. Buongiorno, senta, io posso dire una cosa, ho 65 anni, dal 1972 che giro l'Asia, io scappai dal Vietnam per atterrare sulla pista di Pattaya che stava sulla spiaggia in Thailandia. Adesso negli ultimi 25 anni giro molto la Cina perché lavoro lì, faccio abbigliamento, confezione e vendo in Italia. Allora fino a 15 anni fa, ma forse anche 20 anni fa, non esistevano massaggi in Cina. In Cina. Era vietato perché era una cosa borghese e non esisteva neanche la prostitute perché c'era la resta. Negli ultimi 15 anni diciamo che la Cina si è aperta abbastanza, danno i visti più facilmente anche qui a Roma, e allora si è creato un po' di prostitute per la strada, che ce n'è anche in Cina. Però spesso noi, dico noi, io non sono un santo. Ma che figuriamoci, mica io sono nemmeno io sono un confessore. Se qualche volta nei tempi sai di 20 giorni ti portavi una donna in albergo, certo. Ma spesso è successo che portando in albergo con i telefonini, telefonavano, arrivava qualcuno alla camera, bussava, non si vedeva, era il suo uomo, qualcosa, ti mettevano paura, tremente, questo e quell'altro, o mi dai i soldi o chiamo la polizia. Quindi c'erano un pappone che le seguiva, era un'attività criminale, sì. Certo. E a lei è successo questo? No, non mi è successo, perché ero prevenuto a queste cose, perché se non so di questo, se lei sa, circa 5 anni fa, in Cina ci fu un grande scandalo dove un gruppo di turisti giapponesi portarono, un gruppo, parlo di una decina di persone, portarono delle donne in albergo, se non che la notte intervenne la polizia. Questa è una cosa di cronaca che l'hanno tutto il mondo, ci fu una protesta del Giappone, all'incirca 5 anni fa. E da quel giorno, allora... Ma cosa facevano, un'orgia in albergo? Sì, più o meno. Beh, mi ricordo, sì. Io questo non c'ero presente. Vabbè, questo passò le giornate. Tutti i giornali ne parlavano, le televisioni ne parlavano per settimane intere, perché questi giapponesi vennero portati tutti in prigione per sfruttamento, la prostituzione e tante altre cose. Poi in Cina queste cose le puoi sapere soltanto tramite... Quindi la sintesi, secondo lei queste signorine che esercitano questa strana forma di massaggio romantico in Italia... Ci arrivo. Sì, però prima delle 11. Prima delle 11, io c'ho tempo, tanto non lavoro. No, io no, però. Alla forza, stringa. Allora, praticamente, adesso... No, parte la motosega, è proprio a tema questa mattina. Negli alberghi cinesi, adesso hanno fatto una specie di spa, la chiamano proprio spa, dove si va giù, ti puoi fare la sauna, quello che vuoi, poi ti puoi scegliere una donnina, puoi scegliere quello che vuoi, ed è un massaggio sessuale e nient'altro. Questa è la vera... Quindi negli alberghi cinesi esiste la forma, diciamo, più di lusso di questa attività da stazione di Milano o da piazza quartiere Esquilino a Roma, la stessa cosa, ecco, solo che lì, diciamo, è paventato sotto una specie di centro di salute e benessere. Ma io voglio rispondere a quella signora che diceva che ha fatto la scuola militare a Pechino. No, sei allenata col massaggio cinese in una scuola militare. Io voglio rispondere perché io Pechino la conosco molto bene. E non esiste un massaggio cinese, perché è una cosa borghese. Vabbè, esiste un massaggio al posto dove al dolore con l'agopuntura che io ho fatto perché mi si è rompetto una... Vabbè, guardi, lei è come Indiana Jones, ha girato il mondo e quindi avrebbe da raccontare per 3 giorni. Ricorreremo alla sua memoria storica quando avremo a fare quelle belle trasmissioni di intrattenimento. Daniele Cologna, ritorniamo un pochino al punto. Ricordo che è un sociologo delle immigrazioni, un sinologo, esperto di immigrazione cinese in Italia. Mi sono confuso un po' le idee perché con tutte queste testimonianze di viaggiatori ho perso di vista il punto. Io vorrei ritornare a quello che accade in Italia. Ho capito che non c'è nessuna tradizione ininterrotta dall'antico sapiente massaggio cinese. Si sono inventati il massaggio cinese per fare una sorta di piccolo casino la bella e buona per gli italiani. Non proprio, nel senso che esistono anche dei centri di massaggio cinesi in cui si propone Tui Na e An Mo, che sono le tradizionali tecniche di massaggio cinesi. Non è quello romantico. Non è quello romantico, si viene massaggiati da persone che magari non hanno una grandissima dimestichezza, ma comunque hanno studiato queste tecniche e le offrono a persone spesso anche di una certa età e non solo uomini. Però sono una minoranza, la stragrande maggioranza invece sono luoghi dove effettivamente si offre un massaggio che culmina spesso e volentieri nella masturbazione a prezzi molto più bassi di quelli che sono stati detti prima, il prezzo medio si gira intorno ai 50 euro. Invece no, 110 per i quali costringono a fare la doccia, c'è tutta una serie di attività. Allora, se si va su un massaggio che diventa di natura più cospicuamente sessuale fino al rapporto completo, allora lì la quota sale. Il fatto che non sia mai veramente chiaro ed esplicito, se non i luoghi che citavamo prima, quelli che dichiaratamente fanno proprio il casino, per capirci, e sono quelli più bastonati anche dalle forze dell'ordine, ma nella maggior parte degli altri posti questa cosa non è mai chiara, tant'è vero che il fascino per molti degli utenti di questi centri massaggio è proprio il fatto che non sai mai che cosa effettivamente ti viene offerto, che tu puoi in qualche modo richiedere. Quindi si illudono di essere dei seduttori, cioè ho sedotto la cinesina, ecco. È questa la cosa che è molto più raffinato, il cliente italiano. D'altro canto però vorrei anche dire un'altra cosa, questi luoghi al chiuso in cui si svolgono attività di carattere prostitutivo non sono affatto più sicuri, più tra virgolette accettabili della prostituzione di strada, per alcune ragioni molto semplici. Le unità di strada, per esempio, che offrono assistenza alle prostitute in strada, o le forze dell'ordine che monitorano la prostituzione su strada come fenomeno di sfruttamento della prostituzione, hanno buon gioco in strada perché la strada è aperta. I luoghi al chiuso invece sono molto più difficili da controllare e da questo punto di vista spesso sono dei luoghi dove la dinamica, diciamo così, di sfruttamento e anche di cooptazione delle donne in questione è molto più difficile da contrastare. È quello che mi piacerebbe sapere. Mito, quello dell'idea del se è al chiuso, allora è una cosa, come dire, accettabile. È ancora peggio per le ragazze. Ci fermiamo un istante, proverei immediatamente dopo l'informazione del traffico che lei, Cologna, mi facesse una tipologia della ragazza che lavora in questi centri, perché abbiamo parlato, cioè abbiamo scherzato sopra, ma l'idea stessa che possa esserci una forma di schiavitù da parte di queste ragazze farebbe riflettere anche magari le persone, così in maniera leggiata sembra che vadano a farsi una passeggiata, una rimpatriata tra amici. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, stiamo toccando l'argomento dei centri di massaggi cinesi, luoghi indecifrabili ma poi anche facilmente decifrabili, almeno alla luce delle testimonianze dei nostri ascoltatori. Pino? Ah, buongiorno Nicoletti, scusi, ecco. Non avevo capito che sta parlando. Lei, Pino. Niente, no, io volevo dire una cosa, io frequento questi posti abbastanza abitualmente. Ecco, diciamo, finalmente no? Qualcuno che lo dice, perché sembrava che qua tutti parlano degli altri. Infatti io sono qual è il problema? Sono atterrito dall'ipocrisia degli italiani, che fanno tutti le vestali, no? Certo. Sembrano tutti dei chierichetti. E poi, se lei va in questi posti, Nicoletti, c'è la coda, bisogna aspettare magari anche un'ora. Un'ora di attesa? Sì, e nonostante che non... Ma cosa c'è? Una sala d'attesa? Dove aspettate? C'è una stanzina all'ingresso dove si aspetta. Com'era i vecchi casini proprio? Più o meno, sì. E mentre aspettate, che fate? Chiacchierate? Cosa fate? Ma, no, ognuno si fa gli affari. Giocate con l'iPhone? Sì, più o meno sì. Comunque. Ma si può scegliere? Si può scegliere oppure uno come capita? Ma allora, solitamente. E mi faccia. Scusi, Pino. Sì, andiamo per, sì. Mi faccia tutto l'iter. Lei cosa fa? Suona il campanello e entra tutto? Sì, sapere. Allora bisogna suonare il campanello perché la porta sta sempre chiusa, no? E, dopo aprono, arriva una, solitamente quella che gestisce. La maîtresse. Sì, più o meno. Può essere pure un uomo, non è detto che sia una donna. E poi questa, se è libera, si entra, di solito ti accompagnano in questi stanzini, che sono degli sgabuzzini, praticamente sono due per due con questo letto. E tanto sono piccole le cinesi. Sì, infatti, con questo letto ci sta sempre questa musica cinese, no, che suona nel locale. E com'è arredato? È arredato in maniera decente oppure? Ma no, solitamente nello stanzino c'è solamente il letto e un lavandino, no? È un attaccapanne, diciamo, nulla di più. È qualche quadretto appeso al muro. E mettono la carta sopra, come nei lettini degli ospedali. Sì, esatto, esatto. Mettono la carta che viene cambiata ogni cliente. Ogni cliente che viene. Non è che la girano, ce ne fanno due. Ma non lo so, vabbè, può darsi. Comunque, solitamente, vabbè, capita, non è che c'è sempre da aspettare. Se uno va magari negli orari meno... Una volta dentro, quanto dura il massaggio? Allora, si può scegliere solitamente se fare o mezz'ora o un'ora intera. Poi ci stanno pure i servizi aggiuntivi, che si può fare la vasca da bagno, la doccia. Io non lo so perché non l'ho mai fatto. Comunque, in alcuni di questi stanzini ci sta pure una vasca da bagno, solitamente di legno. Quella giapponese, tutta nel proprio... Sì, esatto, è una specie di tinozzo grosso. Comunque, niente... E dopo ti chiedono che tipo di massaggio vuoi. Ma vi spogliate tutti nudi? Sì, ci si spoglia nudi, però poi... Poi i calzini li tiene, almeno. Sì, ma si può pure togliere, uno vede. Però comunque danno solitamente una specie di mutandina di carta da mettere. Ah, quelle che danno nei veri centri massaggi, Esatto, e danno queste mutandine di carta, uno se le indossa. Ma la ragazza è vestita? La ragazza è vestita, sì, a volte sono vestite in modo un po' non provocante, però magari minigonna, così, però sono sempre... E comincia il massaggio. E non si spogliano le ragazze, quindi non è che... Poi comincia il massaggio. Dopodiché comincia il massaggio, solitamente partono dalla schiena, con l'olio, mettono l'olio Baby Johnson, no? Quello per i bambini, no? Certo, che costa meno. Poi non lascia quell'odore lì degli oli profumati, poi la moglie che gli racconta. Esatto. E niente, dopodiché fanno sto massaggio. E poi io, dipende, si fa solitamente la schiena, poi le gambe, sì. Poi fanno il collo. Sì. Io adesso... Poi si gira. Non so se sia terapeutico, non terapeutico. Poi si sente bene lei. È piacevole. Certo, grazie. E poi si gira dall'altra parte, si gira di schiena. A pancia sopra. Fanno sempre massaggio al torace, alle gambe, ai piedi. E si finisce. E dopo, alla fine, ti chiedono se vuoi... Romantico. Regalino. Regalino lo chiamo. L'aggiuntina. E come la parola com'è? Vuoi aggiuntina? Come dicono? No, toccano, ti danno una smanacciata sotto le mutande di carta. Attenzione, allora c'è un discorso importante, perché qua poi mi sembra che... No, chiuda, perché devo continuare con l'ospite. Sì, scusi, no, perché tanti parlano e non sanno le cose. Certo. Se si fa sto regalino, ci si mette d'accordo con la ragazza, direttamente. Si paga cash lì alla ragazza subito. E i soldi per quello si danno alla ragazza. E quanto si dà? Quanto si dà? E paga al massimo 15 euro. Quindi la cifra è quella. E poi esce e al pappone dal resto del massaggio. Chiarissimo, Pino, in bocca al lupo, auguri, buona salute. Allora, Daniele Cologna, la domanda che l'avevo fatto prima: chi sono queste ragazze? Qual è il livello di sfruttamento di queste ragazze? E secondo lei c'è proprio un problema di diritti umani nei confronti di chi lavora in questi posti? Allora, non parlerei di schiavitù, non parlerei assolutamente di riduzione in schiavitù, né parlerei di uno sfruttamento generalizzato paragonabile a quello che si ha in altre forme di... Cioè le prostitute di strada, ecco. Indoor. No, di prostituzione indoor, è proprio un errore. No, ma dicevo, che la prostituzione di strada sia più sfruttata di quella dentro casa. Le prostitute brasiliane che operano in appartamento a Milano sono molto più sfruttate delle romene in strada. Capiamoci subito su questa cosa. No, interessante. È proprio un falso mito questo qui. Diciamo che farò con lei una trasmissione che abbracciamo il problema più vasto. Esatto. Sì. Poi andiamo sulle cinesi. Quindi questi cinesi chi sono? Da dove vengono? Sono ragazze, nella misura in cui sono ragazze, perché esiste anche una popolazione molto ridotta ormai di persone che hanno una certa età, dai 45 ai 55 anni, che spesso sono quelle sì, persone che erano arrivate proprio come prostitute alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, da una zona del nord-est della Cina e fanno un po' un discorso a parte. Le ragazze invece, giovani, spesso sono ragazze che vengono assunte apposta o addirittura reclutate in Cina per lavorare nei centri di massaggio. Il più delle volte vengono reclutate come delle normalissime commesse in un negozio, cioè da questo punto di vista qua c'è una differenza sostanziale. Chi gestisce un centro massaggi nella maggior parte dei casi non è un pappone o una maîtresse, è una persona che gestisce un esercizio commerciale e che dà un fisso ai propri dipendenti. Questo fisso spesso le ragazze se lo supplementano con questo tipo di attività senza necessariamente avere per questo il benestare di chi gestisce il negozio, oppure viceversa chi gestisce il negozio considera questi introiti maggiorati parte integrante della paga che viene data alle ragazze. Come una volta si diceva che erano le entrenese nei vecchi night. In un certo senso, ecco, la cosa che forse più ci assomiglia è proprio quella cosa lì. Sì. Esiste però anche un fenomeno molto più piccolo del macro fenomeno centri massaggio, in cui possiamo individuare elementi di sfruttamento prostitutivo, diciamo così, di scala un pochino più ampia e più seria, e sono quelli, ripeto, su cui spesso si concentra l'attenzione delle forze dell'ordine, perché questi luoghi sono facili da individuare. Esistono dei forum online di clienti che raccontano nei minimi particolari. Ma infatti, guardi, tutta la mia esperienza, non voglio millantare integrità che non ho, sono andato in questi forum, ho saputo tutto. Quello che mi diceva, sono troppo anziane, adesso arrivano solo quelle di 50 anni. L'ho letto in uno di questi forum. si danno... Infatti. Però spendono un sacco di soldi, perché vedevo che la cifra aumentava rispetto a quello che ha detto. Evidentemente poi... Dipende da cosa uno chiede. Il rapporto completo costa caro e non è sempre facile ottenerlo. Qualcuno dice che le invitava fuori dopo il massaggio, qualcuno andava, qualcuno no. Era molto difficile, esatto. Comunque. È tutto molto diversificato, non è un fenomeno che ha in qualche modo dinamiche organizzative ampie che possano dire. Ma secondo lei proprio... così. È proprio legato alla natura del piccolo esercizio. Daniele Cologna, poi ripeto, più di uno di questi piccoli esercizi, lì sono casi un po' più particolari. Voglio sapere, Daniele Cologna, poi ritorneremo con lei in una trasmissione approfondita sulle tipologie della prostituzione, sembra interessante. Questo tipo di attività, visto che i cinesi sono scaltri e capiscono a pelle il mercato, va a intercettare un bisogno reale e concreto che c'è nel nostro paese? Ma io questa specifica attività. Credo che si tratti un po' di quello che diceva anche la persona che è intervenuta prima. C'è molta ipocrisia su questo tema in Italia, e questo è un paese... che su questi bigotto, temi molto bigotto, chiaro. Non fa molta chiarezza, e oltretutto sicuramente c'è molta più promiscuità sessuale, diciamolo in termini schietti, di quanto non ci si ammetta a chiare lettere, insomma. Allora, il fatto stesso che la maggior parte degli uomini italiani, su questo ci sono varie stime, ma però fermiamoci, ragazzi, sennò la sigla la taglia. Ritorneremo presto con lei, questo è un arrivederci, perché vogliamo approfondire il problema anche in altri aspetti, non soltanto in quello delle signorine cinesi. A domani.